La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. L'articolo 79 riguarda gli istituti più classici di clemenza collettiva, l'amnistia e l'indulto. Perché sappiamo che per tradizione spettava innanzitutto ai sovrani poter cancellare le pene, e cancellare le pene in maniera collettiva attraverso l'amnistia o in maniera individuale attraverso la grazia. Questi poteri oggi restano nel nostro ordinamento. L'amnistia e l'indulto spettano al Parlamento, mentre la grazia spetta al Presidente della Repubblica. Il testo originario della Costituzione stabiliva che anche amnistia e indulto spettassero al Presidente della Repubblica, e quindi accadeva che regolarmente, ad ogni elezione di un nuovo Presidente, il Presidente compisse quest'atto di clemenza, concedendo l'amnistia e l'indulto ai carcerati. Amnistia e indulto sono istituti tecnici che si differenziano per il fatto che l'amnistia cancella il reato mentre l'indulto cancella la pena. Quindi, se si riceve solo l'indulto, resta comunque nel casellario giudiziario la dichiarazione del reato commesso, ma non viene concretamente applicata la pena. Nei primi decenni di vita repubblicana, troppo spesso venne applicata l'amnistia e o l'indulto. Praticamente ogni 7 anni, all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ci si trovava di fronte ad un'amnistia. Ecco allora che si pensò nel 1992 di modificare l'articolo 79 della Costituzione e rendere molto più rigida la concessione di questi istituti di clemenza. Innanzitutto, la competenza è stata trasferita al Parlamento, ma il Parlamento deve approvarla mediante una legge speciale, una legge che deve essere approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale. Quindi una legge che ha una maggioranza ancora più alta di quella necessaria per la revisione costituzionale. La riforma costituzionale del 1992 ha irrigidito la procedura di amnistia e indulto per cercare di rendere meno frequente l'applicazione di questi istituti di clemenza. Da allora è divenuto difficilissimo approvarli. E quindi, dal 1992 in poi, soltanto una volta nel 2006 si è riuscita ad approvare con grande difficoltà una legge di indulto. Questo ovviamente, paradossalmente, ha creato anche problemi di sovraffollamento carcerario, in quanto sappiamo che l'Italia ha un serio problema di popolazione carceraria e purtroppo negli anni amnistia e indulto erano stati utilizzati anche come modalità per risolvere il sovraffollamento carcerario. Ovviamente è una tematica che andrebbe affrontata in maniera più profonda e radicale, con interventi sul modello penitenziario e allo stesso tempo sul modello dell'ordinamento penale.